Eh sì, mi tremano le gambe ancora oggi a sentire la parola Olimpiadi. Per me, diciamo, è un grande sogno che si sta realizzando a soli 17 anni. Spero di dare il massimo perché ho fatto una buona preparazione e spero di centrare bene l'obiettivo. Ecco, il problema è che se a Mirko tremano le gambe c'è il rischio proprio di compromettere tutta la prestazione sportiva, perché Mirko Scarantino a Londra ci andrà come unico rappresentante del sollevamento pesi italiano. Quindi piano con l'emozione, perché quelle ginocchia, quelle gambe davvero non possono tremare, eh? No, infatti, sicuramente, questo diciamo che solo quando ho saputo la notizia che stavo ritornando da Catania per andare a casa un paio di giorni, diciamo solo in quel momento mi sono tremate le gambe, ma adesso stiamo preparando bene la spedizione.